Thank you. Thank you.

e senza lumicino coronero un cammino son più chiare delle nevi di Toledo. Ferro, bronzo, muro, roccia, moschina, la tua capoccia son venturi delle nevi di Toledo. Dunque fa saluta a tutti, barca i monti, dalle flutti, dalla larga, dagli nevi di Toledo. Thank you.

Oh,